Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, bentornati a Summertime. Noi vogliamo aprire la settimana con il festival, il Rossini Opera Festival, che si è aperto a Pesaro venerdì e che continuerà per tutto agosto. E abbiamo con noi il sovrintendente Gianfranco Mariotti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, quali sono le novità di quest'anno? Che cosa portate in scena? Si è aperto con Ciro in Babilonia, poi c'è Matilde di Chabran e il signor Bruschino, giusto? Sì, poi ci sono altri due titoli. C'è il Viaggio Ernst che conclude l'Accademia Rossiniana e Tancredi in forma di concerto. Ecco, voi portate in scena diciamo dei drammi giocosi che però non sono proprio i cavalli di battaglia, no? Tipo il Barbiere di Siviglia, l'Italiana in Algeri. Per quale motivo? Sempre per questo vostro aspetto filologico di far riscoprire il compositore in tutto e per tutto? Beh, Rossini ha composto una quarantina di opere, ne erano rimaste in circolazione solo tre o quattro, in prevalenza buffe, per cui da qui è nato il pregiudizio che fosse un autore di opere buffe, mentre ha scritto in prevalenza opere drammatiche, cioè sono di numero maggiore le opere serie rispetto alle altre. Poi ci sono le opere semiserie, Matilde di Chabran è una di queste, sono quattro le opere semiserie di Rossini. E quindi più che scrupolo filologico è proprio lo scrupolo di restituire per intero il catalogo di Rossini, restituire a questo compositore e anche a quest'uomo l'immagine vera, l'immagine che non corrisponde a quella della tradizione. Adesso ormai gli anni sono passati, la restituzione del catalogo è quasi terminata, ci manca ancora un titolo, quindi è tutto chiaro. Però diciamo il genere buffo è sempre presente naturalmente nelle nostre proposte, ma insomma ha lo spazio che deve avere, ecco. Quest'anno oltre a Matilde di Chabran c'è un avvenimento musicologico che è Ciro in Babilonia, che viene presentato per la prima volta nell'edizione critica della Fondazione Rossini, e poi c'è un'altra nuova produzione che è il signor Bruschino, che ha per caratteristica di essere uno spettacolo totalmente collettivo. Non solo lo scenografo e il costumista sono collettivi, l'Accademia di Belle Arti di Urbino, ma anche il regista è un gruppo di intellettuali fiorentini, trentenni, che si chiama Gruppo Sotterraneo, che vengono dal teatro di ricerca e a loro volta fanno una regia d'insieme. Quindi lo spettacolo che ne risulta, che è pieno di idee, risulta dall'incontro fra due collettivi. Senta, sovrintendente, lei pensa anche in questa riscoperta del Rossini drammatico, che abbia avuto anche un ruolo, il maestro Muti che all'Opera di Roma ha voluto dirigere il Mois? No, non c'è dubbio, Muti ha diretto poco Rossini, ma massimamente significativo, che ha diretto solo opere serie di Rossini, perché ha fatto Guillaume Tell, Donna del Lago, e adesso questo ha fatto il Mosè alla Scala, poi questo Mosè a Roma, ha fatto per la prima volta il Guglielmo Tell in edizione integrale al Maggio Fiorentino, è un merito non da poco, perché dimostrò per la prima volta che le opere senza tagli sono più corte di quelle tagliate, cioè il paradosso per il quale i tagli tolgono l'equilibrio di pieni e vuoti che il compositore ha immaginato e rendono l'opera più pesante. Quindi Muti è stato importante nella riscoperta del Rossini drammatico. Sì, perché ecco, come le dicevo, no? Sempre si parla di Rossini per il Barbiere, l'Italiana in Algeri. Senta, invece Ciro in Babilonia è il dramma che voi mettete in scena proprio al Rossini Opera Festival di quest'anno. E come lei ha detto, è la prima volta, eccetera. Perché questa scelta? È perché è il penultimo titolo del catalogo che aspettava di essere restituito, è un'opera in cui manca l'autografo, è stato ricostruito sulle fonti manoscritte ad opera della Fondazione Rossini, è stata restituita all'originale, alla lezione originale, quindi noi continuando la nostra missione, abbiamo scelto questo titolo invece dell'ultimo che resta, Cavoregnano in Palmira, che faremo nel 14. Quindi c'è una ragione proprio istituzionale. E poi c'è che è un'opera interessante, un'opera che nessuno conosce, la prima opera drammatica rappresentata di Rossini, corrono 200 anni esatti dalla sua composizione, quindi è un'opera molto interessante, viene restituita da una regia molto leggera, molto creativa, ispirata al cinema muto, ai colossal italiani dei primi anni del secolo XX, come Cabiria. Per mettere in scena questo spettacolo abbiamo sfruttato una collaborazione con l'Istituto Nazionale del Cinema, con il Museo Nazionale del Cinema, che ha sede a Torino. Abbiamo avuto degli spezzoni originali anche da utilizzare nella messa in scena, che un entrare e uscire dal cinema muto, di cui recupera la gestualità enfatica, melodrammatica, sopra le righe, che il cinema muto mutuava dall'opera dell'Ottocento, per cui abbiamo l'opera oggi che si ispira alla gestualità del cinema muto, che si ispirava alla gestualità dell'opera, quindi c'è un doppio rimando a specchio. Quindi bellissimo da essere. Allora, insomma, molto interessante. Allora, noi ricordiamo che appunto si è aperto venerdì e che proseguirà per tutto il mese di agosto il Rossini Opera Festival a Pesaro. Ricordiamo, gli appuntamenti sono alle 20 e i concerti dove si tengono? Mi scusi, sovrintendente, tanto per I concerti si sono in parte alla fascia del mattino, alle 11, e in parte alle 17 del pomeriggio. E poi invece l'opera alle 20. L'opera sempre alle 20, sì. Con tre titoli, Ciro in Babilonia, Matilde di Chabran, Il signor Bruschino, ma come abbiamo sentito ci sono moltissimi concerti, quindi chi va a Pesaro non avrà certamente da annoiarsi con questo grandissimo compositore. Grazie infinite al sovrintendente Gianfranco Mariotti. Buon pomeriggio. Arrivederci. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E noi adesso andiamo alla Versiliana, dove ogni martedì, con puntualità svizzera oserei dire, Fabio Genovesi cura la sezione dedicata ai libri. Cioè, che cosa succede? Ci sono incontri con autori, Fabio? Ciao, buonasera a tutti. Gli incontri sono tutti martedì legati ai libri. Il Caffè della Versiliana c'è ogni giorno, ma i libri specificamente il martedì. Ecco, e che cosa fate? Vi riunite, discutete, cercate nuovi talenti? Sì, noi cerchiamo sempre di chiamare gli autori senza un libro da promuovere per forza, insomma, se no si finisce solo a parlare del libro. Mi piace cercare di parlare con loro di perché scrivono, di com'è la loro vita, insomma, di farci aprire il famoso cassetto della scrittura, insomma, più che il libro in evidenza. E che cosa hai scoperto fino adesso? Quali sono stati i tuoi ospiti? Che cosa ti hanno raccontato di particolare? Noi siamo curiosi. Antonio Pascale e Antonio Leotti ci hanno raccontato il loro rapporto privilegiato con l'agricoltura, col mondo della terra e come si rapportano con la campagna, che è per loro fondamentale per scrivere. Edoardo Nesi ci ha raccontato molte cose curiose, fra l'altro il fatto che non sa scrivere al computer con più di un dito, quindi scrive tutti i suoi romanzi con l'indice destro, muovendolo sulla tastiera in maniera però velocissima, ci ha garantito. Quindi sono tutte cose particolari che vengono fuori, che abbiamo avuto vari scrittori giovani, da Filippo Bologna, Michele Dalai, Simone Lenzi, ci hanno raccontato un po' il loro rapporto con la scrittura e la musica, insomma certe prospettive che non siano sempre le solite, che il pubblico già conosce. Quindi insomma, come tutti gli scrittori hanno il loro metodo, tu che cosa hai ricavato da questo tuo, diciamo, da questa tua ricerca? Che tutti gli scrittori si alzano la mattina, scrivono due ore, eccetera, o ognuno varia e dipende da come si sentono? Com'è la struttura per scrivere un romanzo? È strano, io me la chiedevo per deformazione mia personale. Speravo di capire qualcosa, se il mio metodo fosse simile a loro. In realtà ho scoperto con gioia che ognuno ha le sue caratteristiche, c'è chi scrive di mattina, chi di notte, chi ha bisogno del silenzio totale, chi scrive con la musica alta. Quindi forse, se possiamo già provare a trarre una conclusione, è che il vero metodo è il metodo che piace a te, insomma, può essere qualsiasi esso sia. Ho capito. Tra le altre cose, voi avrete Giulia Iachino domani, no? Che vi dice proprio un editor, Giulia Iachino, che vi dice proprio come si scrive, che cosa succede nel mondo degli editor. Cioè, perché poi uno scrittore scrive un romanzo, arriva il romanzo in una casa editrice e questo romanzo magari viene anche stravolto. Sì, è il passaggio secondo me più interessante perché è meno conosciuto. Di solito si pensa sempre al famoso romanzo nel cassetto e poi diventa magicamente il romanzo sugli scaffali delle librerie. Domani insieme a Teresa Ciabatti, a Chiara Valerio e a Giulia Iachino, che è il capo editor nella narrativa italiana Mondadori, ci racconteranno come un libro nasce, ma soprattutto come viene scelto e che tipo di lavoro ci si fa sopra, ovviamente che tipo di lavoro si fa insieme allo scrittore, insomma da lì nascono probabilmente molte problematiche tipo l'ego dell'autore che magari considera intoccabile una virgola e allora magari giorni passati a convincerlo oppure a capire che ha ragione lui, insomma, quindi una specie di l'unico momento in cui il libro non è più l'opera di uno ma diventa una collaborazione in un certo senso, e le polemiche legate al fatto che l'editing sia giusto, sia sbagliato, insomma vedremo tutto questo passaggio che è uno dei più importanti ma il meno considerato dai lettori. Senti Fabio, quali sono gli appuntamenti delle prossime settimane? Questo venerdì abbiamo Giovanni De Casaldo che ci parlerà del nuovo libro, ma in realtà di tutto l'immaginario del romanzo criminale e dei suoi libri. Poi abbiamo Maurizio Di Giovanni il martedì dopo. E andremo a chiudere con Luca Bianchini il 28 agosto che ci racconterà del suo amore per i libri, per la radio, per le passioni in generale della sua vita. Quindi tra loro autori molto diversi ma al tempo stesso legati dal comune denominatore di una grande passione che poi motiva i loro libri. Maurizio De Giovanni, che io conosco personalmente, è un mio caro amico ed è una persona splendida anche fuori da quello che sono i suoi romanzi che ha creato. Il commissario Ricciardi, lui i primi romanzi li ha scritti in vacanza, addirittura si prendeva 3 settimane di ferie perché lui fa tutt'altro lavoro nella vita e tutti i giorni scriveva 8 ore al giorno, quindi un grandissimo saluto e spero allora di ricontattarvi proprio quando avete Maurizio e quando avete anche altri autori. Grazie Fabio, ricordiamo l'appuntamento alla Versiliana con tutti i martedì puntualissimo Fabio Genovesi porta gli autori a discutere dei loro libri ma anche della loro vita e questo martedì avremo Giulia Iachino, editor Mondadori, che ci racconta come si trasforma un manoscritto in un romanzo pubblicato. Grazie. Grazie a voi, buona serata. E allora noi abbiamo un libro che abbiamo scritto e l'abbiamo messo in un cassetto e adesso lo vogliamo pubblicare. Come facciamo? Questa è una domanda da $1 milione che porgiamo quindi a Giulia Iachino, editor Mondadori. Buon pomeriggio Giulia. Buon pomeriggio a voi. Allora, chi ha scritto un libro e ce l'ha nel cassetto, in primo luogo farebbe bene a rileggerlo con attenzione un paio di volte, a farsi un giro in una libreria e guardare un po' qual è la produzione così corrente degli editori, a cercare di capire quale potrebbe essere la casa editrice più in linea con il testo che ha scritto. E a quel punto può individuare magari in quella casa editrice l'editor o il responsabile della linea, della collana a cui intende rivolgersi, quindi non mandare il libro genericamente a un editore, a una sigla editoriale, ma a un editor in particolare. Oppure può rivolgersi a un agente letterario e provare a farsi rappresentare da quell'agente che, conoscendo bene il mondo dell'editoria, porterà il suo libro alle persone giuste. Quindi tu mi stai dicendo che il nostro povero scrittore che ha scritto questo bellissimo manoscritto non deve pensare di essere Shakespeare né tantomeno Virginia Woolf, ma deve cominciare a pensare anche un po' al marketing, questa è la sostanza. Più che altro a pensare un po' agli altri, cioè una delle cose che più spesso si ravvisa nelle persone che aspirano a vedere pubblicati i loro testi è una grande concentrazione sul proprio testo e una spesso grande ignoranza di di tutto ciò che accade nel mondo letterario ed editoriale in generale. Quindi la cosa che raccomando in primo luogo è di confrontarsi con gli altri, anche per vagliare l'originalità, valutare l'originalità di quel che si è scritto e appunto la possibile collocazione. Poi al marketing ci pensano gli editori, se è il caso. Allora, te come editor di Mondadori, per esempio, tu hai detto c'è un editor per ogni sezione, no? Te di che cosa ti occupi? Io in realtà mi occupo di tutta la narrativa italiana, diciamo, sia quella, quindi tutti i romanzi scritti da autori italiani, sia sul fronte più letterario, sia sul fronte, diciamo, dell'intrattenimento, della narrativa di genere. Quindi io sono il referente per la narrativa italiana in generale, in casa editrice, poi ci sono persone che mi aiutano. Però appunto in ogni casa editrice ci sono anche specializzazioni più minute, per esempio per la narrativa straniera noi abbiamo due diversi editor che si occupano della parte letteraria e della cosiddetta commercial fiction. Quando ti arriva un manoscritto, no? A un certo punto giunge sul tuo tavolo, quali sono gli errori che generalmente più comuni che tu riscontri? Errori ortografici, che spesso sono molto frequenti, ovviamente sono i meno importanti. No, gli errori di struttura, certo, di strutturazione, certo, del romanzo, del plot, diciamo, della trama. Ma guarda, appunto, l'errore più, cioè è difficile in realtà parlare di errori, perché poi le opere letterarie di maggior valore sono quelle che più scartano rispetto alla norma, e quindi in realtà in qualche modo l'editore cerca l'errore, cerca l'originalità, cerca la cifra unica che gli altri non hanno. Diciamo che l'errore più frequente invece è proprio l'imitazione, lo scrivere qualcosa o di troppo privato, personale, autobiografico, che non ha veramente un interesse per gli altri, o di sostanzialmente imitativo rispetto ad altre narrazioni, e quindi già visto, già letto, in qualche modo già sentito. Voi della Mondadori avete vinto poi il premio Strega, no? L'ha vinto Piperno, però insomma l'ha vinto la vostra casa editrice. Però molto spesso il premio Strega viene oramai tacciato, no? Di essere un po' un premio che le case editrici si spartiscono un anno un'altra, eccetera. Quanto invece è importante questo premio, e soprattutto che cosa succede quando si vince? Che volano è, per esempio, per le vendite? Dunque, il premio Strega è un premio gloriosissimo che annovera nella lista dei suoi vincitori moltissimi dei più grandi scrittori, quelli che in qualche modo fanno il canone della letteratura italiana del Novecento, per cui diciamo della seconda metà del Novecento. Questa è una ragione del suo prestigio. L'altra ragione profonda è che il premio Strega è un premio che determina comportamenti di acquisto dei lettori, cioè chi vede che un libro ha vinto il premio Strega o anche è stato nella cinquina finalista, per lo più dà credito al premio e ritiene che il libro sia interessante e lo compra. Quindi il premio è molto ambito dagli editori, sia per ragioni di prestigio culturale, sia perché aumenta le vendite dei libri che vincono in particolare. Detto questo, si tratta di un premio letterario con una giuria di 400 votanti, con 60 voti delle librerie indipendenti, e ciascun votante riceve le due schede di voto, le gestisce personalmente. È chiaro che in un mondo culturale così, dove fervono le polemiche e i dibattiti, un premio di questo genere è ideale per stare al centro di dibattiti e polemiche, come del resto avviene per quasi tutti i premi letterari del mondo. Il Goncourt in Francia, per esempio, è esattamente identico allo Strega in questo. Detto questo, io credo che se si valutano i vincitori del premio Strega negli anni, ci si accorge che sono sempre i libri vincitori sono sempre dei libri di altissima qualità, e quindi al di là delle polemiche vince la letteratura. Giulia, noi siamo contentissimi perché te ci dici e tu ci confermi che il premio Strega è invece un premio molto duro da vincere e che c'è una competizione assolutamente leale. Un'ultima cosa, Giulia, come si diventa invece editor? Perché insomma non è molto facile. Ma guarda, in realtà un percorso canonico non c'è, si arriva a fare gli editor per varie vie, c'è chi proviene dall'accademia, nel senso che ha fatto per un po' lo studioso e a un certo punto è approdato in casa editrice, c'è chi, come nel mio caso, abbastanza, diciamo, la gavetta in redazione. Io sono partita dalla semplice correzione di bozze come esterna e poi come collaboratrice e poi alla fine sono arrivata a fare l'editor. E sostanzialmente il mio consiglio è di fare ottimi studi in qualsiasi campo si desideri e poi magari frequentare uno degli ottimi master che ci sono e in Italia o all'estero e avvicinarsi alle case editrici con uno sguardo molto aperto sul mondo e una preparazione un po' specialistica ottenuta con un master. Quanti libri leggi e quanti magari come fai a scartare un manoscritto dopo la 20ª pagina? Cosa succede? Allora, quanti libri leggo è difficile dirlo, nel senso che ricevo una media di 15 mail al giorno con proposte editoriali, più tutti i pacchi fisici che arrivano sulla scrivania, più un sacco di altre cose, quindi ne leggo tanti di libri. Rifiutare, cioè decidere che un libro non è in linea con la casa editrice è sempre una cosa che comporta una certa dose di dolore e di difficoltà. In qualche caso è più semplice perché ci si accorge presto che c'è qualcosa che rende il libro inadatto o per una certa ingenuità dello stile o per un tema già molto visitato o per qualche altra caratteristica. In altri casi invece ci sono anche libri belli sui quali invece bisogna meditare a lungo per capire se il giudizio estetico e il giudizio editoriale non sono sempre identici. Capita ogni tanto anche di decidere di non pubblicare un libro che si ritiene bello perché ogni casa editrice ha un profilo, ha una linea, ha in qualche modo anche un pubblico a cui si rivolge e quindi il mestiere a cui l'editore è chiamato è proprio questo, di scegliere e di comporre delle collane, delle linee, oltre che lavorare sul singolo libro, sul suo valore. Ringraziamo Giulia Ichino, editor Mondadori. Ricordiamo l'incontro di domani alla Versiliana, Sopra le righe, gli autori si raccontano dal cassetto alla libreria, come si pubblica un romanzo. Grazie. Grazie, buon lavoro. La zia Nerina dice che da piccola era una scimmia, pelosa, nera, dispettosa e imitativa. Però non ci credo. Poi Matteo e Balilla. E poi Oreste con la Star America e Iride. Altri quattro fratelli sono morti piccoli. Ci sono rimasta male quando ho capito che era morta. No, non ho sentito niente perché io ancora non ce l'avevo il sentimento. Commedia grottesca che narra le peripezie di Teresa Numa in Ardecchia, orfana di madre e figlia, di un contadino laziale manesco e senza cuore, insomma una storia di quelle proprio alla Dacia Maraini, perché questa sera al Festival Nazionale del Teatro di Gioia c'è Mariangela D'Abraccio che interpreta Teresa la ladra. Buon pomeriggio Mariangela. Buon pomeriggio a tutti. Allora, dici che cosa avviene sul palco, dici che cosa fa Teresa la ladra, ovviamente ruba. Quello sì, ma fa di tutto perché è un personaggio, insomma una persona realmente esistita, una donna realmente esistita che ha conosciuto Dacia e Dacia si è ispirata un po' alla, insomma, ha scritto la vita di Teresa Numa. È stata colpita moltissimo dalla sua personalità e dalla sua vita così rocambolesca, veramente accade di tutto, è un romanzo enorme. Lo spettacolo è diventato un'operetta musicale perché poi è stato musicato da Sergio Cammariere, quindi ci saranno le canzoni scritte da Sergio insieme a Dacia per Teresa Lada, sono accompagnata da 5 musicisti in scena. È un'opera veramente buffa su questa vita picaresca, veramente un'epopea dove accade di tutto. Lei principalmente fa la ladra, esce, entra dalle galere, ma non è questo, è anche altro. È la sua vita buffa, tragica, è una donna, accadono delle cose tremende, ma con una grande solarità, una grande forza sempre di andare avanti, una grande sole dentro, anche se la sua vita poi se non si guarda non è magari allegrissima, ma lei ha il sole proprio dentro, non si arrende mai, è piena di vita, ecco. Quindi un pochino è un monito anche a quello che sta succedendo in Italia oggi, cioè reagiamo anche al pessimismo, reagiamo anche alle disgrazie che ci capitano con questa crisi economica, no? sì, assolutamente, sì, lei per esempio non si sarebbe resa di fronte a nulla, niente l'avrebbe spezzata, poi chiaramente era una donna ignorante, veniva dal popolo, che forse il popolo anche in questo senso è più sano, cioè è più pronto anche alla resistenza, no? E al sacrificio, veniva dal popolo, quindi di un'ignoranza totale, quindi era molto istintiva, no? Tutto quello che accadeva era molto sulla sua pelle, però certamente questo esempio di vita dentro, di solarità, eh sì, questa bisogna averla in momenti così brutti di crisi dove la speranza viene uccisa, no? Il sogno viene sempre tarpato, invece no, bisogna crederci andare fino in fondo e vivere con gioia anche purtroppo i momenti brutti della vita. Tu da quant'è che la interpreti? Io è un annetto ormai che siamo dall'altra estate, che siamo in giro, la prendiamo, la lasciamo così. Ci lavoro da un po' di anni perché inizialmente è stata un po' un'idea partita alcune stagioni fa, poi altri spettacoli avevano la precedenza, quindi ho rimandato sempre Teresa, poi è venuta questa voglia della musica dentro che devo dire ha fatto diventare lo spettacolo qualcosa di particolare, cioè proprio uno spettacolo dove musicale in un certo senso, no? Nel senso qualcuno ha definito teatro canzone. Abbiamo anche vinto un premio, il premio Persefone proprio la settimana scorsa per il teatro nella sezione teatro canzone, ma poi alcuni dicono sì è teatro canzone ma è di più, non è, è di meno, insomma non si capisce, che è un'opera musicale molto particolare dove la musica entra nella storia in modo naturale che non ci si accorge nemmeno, eppure invece si suona dall'inizio alla fine musica. Senti, qual è il momento secondo te che questa Teresa ci può dare? Insomma, è il momento toccante dello spettacolo? Ce ne sono tanti, però certamente ce ne sono tanti, anche teneri, quando si ricorda di suo figlio che gliel'hanno poi strappato, non l'ha mai visto e c'è voglia, nostalgia di rivederlo, però lui non la vuole proprio vedere, quindi questa è toccante perché lei insomma sta lì che aspetta sotto casa nel romanzo, poi per esempio la prima volta che entra in carcere non è abituata, dice mi manca l'aria, io volevo essere libera, volevo essere un uccello di bosco, perciò ho scelto questa vita, invece finisco proprio in una... E poi il finale secondo me è bellissimo del romanzo e che anche dello spettacolo, che dice adesso quando esco da carcere non voglio più fare la ladra, basta, voglio trovarmi un lavoro tranquillo, che poi non è vero perché poi lei lo farà sempre la ladra, però questa speranza di ricominciare una vita tranquilla in una casa tranquilla, poi non si sa come la pagherà perché non avendo appunto un mestiere quindi lei fa dei progetti e poi dice vabbè diventerò una sarta, però dice mi comprerò la stoffa, rate, pago la prima rata e poi sparisco, quindi ricomincia una vita bandata. Lei perché la ruba? Perché ruba? Ma ruba intanto perché lei non ha, cioè viene da una famiglia contadina degli anni 20, infatti interessante dello spettacolo è che parte dagli anni 20, la sua storia fino agli anni poi 70, quindi c'è il boom economico, c'è la guerra prima, c'è Mussolini, c'è tutto, lei attraversa tutta la parte dell'Italia che si sviluppa, diventa da contadina, diventa insomma... una nazione insomma, voglio dire, industrializzata, quindi lei attraversa questa storia d'Italia essendo invece un ignorante, quindi lei è abituata a non far niente, nel senso che è stata cacciata a 12 anni da casa, non sa leggere, non sa far niente, non ha una cultura, non sa studiare, non ha studiato, non sa fare nessun mestiere, sta insieme a degli amici, tirano a campare, ma fa la ladra molto insomma, però sa ben rubare, diciamo così, bei portafogli, cose così, roba da proprio da, sì. Allora quindi si trova, è la conseguenza di chi ha le spalle non ha nulla, ecco, cioè, e questo potrebbe essere in un altro senso, ma visto in un altro modo rispetto adesso. Allora ringraziamo Mariangela D'Abraccio, ricordiamo che sarà questa sera al Festival Nazionale Teatro di Gioia al Fedena in provincia dell'Aquila a Piazza Sannitica. Grazie Mariangela. Grazie a voi, vi aspetto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona serata da Elisabetta Fiorito.